Sull'impero di Facebook non tramonta mai il sole. È il social network più frequentato in 111 nazioni del mondo. Nella partita di risico globale ha sconfitto grandi rivali come MySpace e piccoli concorrenti locali. È diventato un regno che supera confini culturali e nazionali. Per il 2009 il suo fatturato è stato stimato in 800 milioni di dollari. Entro la fine dell'anno potrebbe raggiungere un giro d'affari pari a 1 miliardo di dollari. Ad analizzare l'evoluzione delle reti sociali online è stato Vincenzo Cosenza, responsabile della sede romana di Digital PR. Attraverso una mappa ha descritto la rapida avanzata di Facebook, ma dalla cartina è evidente la resistenza di alcuni bastioni, come la grande muraglia dei social network cinesi.